Perfetto giorno di Simone Spezia. Oltre 300 morti e migliaia di feriti per il sisma tra Iran e Iraq, scossa sentita in Israele, Turchia e Dubai. Riparte il confronto sull'età pensionabile, ipotesi di 30 anni di contributi per i lavori più gravosi. Oggi direzione del Partito Democratico, Renzi vorrebbe allargare la coalizione, no, da MDP e sinistra. Freddo e gelo nel centro-nord Italia, allerta nelle zone terremotate dove non sono ancora arrivate le casette. Calcio, ecco l'ultima chance dell'Italia per accedere ai mondiali, questa sera in campo a San Siro contro la Svezia. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Buon inizio di settimana, dall'altra parte del vetro abbiamo Laura Faggini in assistenza in redazione, Paolo Corleoni in regia. I numeri per contattarci sono i soliti, 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp e la pagina Facebook dalla quale andiamo anche in diretta video. Quindi se volete ci potete vedere, potete scriverci e commentare anche là. In apertura dunque il terremoto al confine tra Iran e Iraq. Siamo in diretta con Valentina Furlanetto per un aggiornamento. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Bilancio gravissimo, ancora provvisorio, di questo sisma di magnitudo 7.3 che ieri sera ha colpito fra l'Iran e l'Iraq, a circa 200 km a nord-est da Baghdad. I morti in Iran sono 341, i feriti 5.340, come riferisce la TV di Stato, che ha trasmesso le immagini di questo terremoto, da cui si vedono zone devastate dalla potente scossa, molte frane che si sono verificate a seguito della scossa e rendono anche difficile i soccorsi. I danni sono stati così mostrati dalle immagini della TV di Stato. Per le vittime in Iraq la stima è di 11, ma è molto difficile in questo caso avere aggiornamenti su queste aree. Particolarmente difficile la situazione a Darbandishan, dove l'ospedale è stato severamente danneggiato e ancora senza corrente elettrica. Almeno 30 i feriti in questa cittadina, e c'è preoccupazione anche per due dighe del Kurdistan iracheno nelle vicinanze dell'epicentro del sisma. Come dicevi, la scossa è stata così violenta da essere stata avvertita anche in Pakistan, in Turchia, negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait e in Libano. L'Italia, ha scritto in un tweet Gentiloni, è pronta a offrire e mandare aiuti, ed è tutto. Grazie Duca, Valentina Furlanetto per questo aggiornamento. Veniamo all'Italia con il confronto sulle pensioni che riparte oggi. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Ultime ore di trattativa tra governo e sindacati sulle pensioni. Questa mattina si è tenuto il tavolo tecnico, nel pomeriggio alle 16 incontro a Palazzo Chigi tra segretari di CGIL, CISL e UIL e il premier Gentiloni per tirare le somme. Sul tavolo il tema dell'innalzamento dovuto all'incremento delle aspettative di vita dell'età pensionabile a 67 anni dal 2019. Si discute sulla platea di lavoratori gravosi da escludere, su quanto allargare questa platea, su un eventuale allentamento dei requisiti per accedervi. Ebbene, questa mattina si registra una lieve apertura del governo, che avrebbe proposto un ammorbidimento dei requisiti portando a 30 anni i contributi dai 36 inizialmente previsti per l'accesso alla pensione per i 15 mestieri più gravosi. Ricordiamo, sono gli 11 dell'ape social più lavoratori agricoli, marittimi, addetti alla pesca, operai siderurgici. Altro requisito: avere svolto l'occupazione gravosa per 7 anni negli ultimi 10 anziché 6 su 7. Anche qui un allentamento dei requisiti. Il governo infine avrebbe confermato l'intenzione di mettere in campo un nuovo meccanismo per il calcolo dell'adeguamento dell'età pensionabile, così come richiedevano i sindacati. Poi staremo a vedere nel pomeriggio se queste aperture basteranno o meno. A te Simone. Grazie anche ad Alessandra Schepisi per questo aggiornamento, e veniamo alla politica, perché il confronto sulle pensioni inevitabilmente si intreccia con quelle che sono le vicende più puramente politiche che ci fanno guardare in questo momento soprattutto a sinistra, dove lo scontro sembra almeno al momento insanabile. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. È così: le trattative sulle alleanze nel centro-sinistra tra Partito Democratico e Bersaniani passano di fatto anche attraverso il tema delle pensioni e quello della manovra economica. Un segnale in tempi rapidi da parte della maggioranza su questi temi potrebbe riaprire infatti un dialogo che al momento è ai minimi termini, come ribadisce da MDP Speranza, intervenuto questa mattina a Radio 24. Sentiamo allora Speranza. Col PD in questo momento non si possono fare accordi, perché il PD è il partito del Jobs Act, è il partito della buona scuola, e il partito delle trivelle, ed è evidente che in questo momento abbiamo un'agenda politica diversa, altrimenti io non sarei uscito dal PD e non avrei dato vita ad un altro movimento politico. Stiamo parlando delle elezioni politiche, come si fanno a fare accordi tecnici alle elezioni politiche? L'unico modo per prendere voti e mettere un candidato in ogni collegio, e per come stanno oggi le cose noi metteremo un candidato in ogni collegio per offrire un'alternativa ai cittadini italiani. Banco di prova per le alleanze anche Ius Soli e Biotestamento, se ne parlerà allora nella direzione del PD convocata al Nazareno per le 15, anche questa volta senza streaming. Renzi dovrebbe aprire un tavolo per costruire una coalizione, ribadendo che si lavorerà senza veti ma anche senza abiure. Appelli all'unità intanto da Pisa, Pia e Veltroni, ma la strada resta in salita con i presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso, che sembrano ormai su altre strade. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Per andare all'economia abbiamo il Fondo Monetario Internazionale che conferma la ripresa dell'Italia per quest'anno, un più 1,5% nel suo outlook, ossia le sue previsioni, la sua visione futura per l'Europa. Il Fondo conferma l'accelerazione in un contesto di crescita rafforzata tanto in Europa quanto nell'Eurozona. Secondo il Fondo, il PIL italiano crescerà dell'1,1% nel 2018, dello 0,9% nel 2019. Coglie tra l'altro il Fondo Monetario segnali positivi dal lato dello smaltimento degli NPL, dei non performing loans, ossia i crediti non più esigibili dalle banche. Tra l'altro di ripresa ha parlato anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a margine del forum annuale del Comitato Leonardo. La ripresa in Italia è reale, ma l'economia è ancora fragile. Non dobbiamo smontare le riforme fatte. Ecco alcune delle sue parole. Sentiamolo al microfono di Livia Zancanera. Una ripresa reale, nel senso che abbiamo cambiato direzione di marcia, ma l'economia è ancora fragile perché la polarizzazione è ancora alta. Serve continuare quel programma, cioè una dotazione infrastrutturale all'altezza di questo paese, che veda questo paese centrale tra Europa e Mediterraneo e non periferia d'Europa. Serve un'attenzione al mondo del lavoro e serve una maggiore competitività per le imprese. Serve innanzitutto non smontare le riforme fatte, per esempio sulla legge di bilancio, evitare che tutti questi emendamenti siano solo legati, diciamo, un po' a dimensioni categoriali e non a un'idea di paese del futuro. Dodicesima emissione per il titolo di Stato indicizzato all'inflazione italiana, il BTP Italia per intenderci, fu concepito, lo ricorderete, nel 2012 con l'intento di raccogliere l'interesse di piccoli risparmiatori. Il nuovo BTP Italia avrà scadenza a 6 anni, sarà offerto dal Tesoro all'investitore privato dal 13 al 15 novembre. Deborah Rosciani e Mauro Meazza nel corso di 2D Denari hanno chiesto a Maria Cannata, che è direttore del debito pubblico del Ministero dell'Economia, quali sono le aspettative che il Tesoro ha su questa emissione che rimpiazza il BTP Italia di 4 anni fa, che fu un'emissione valanga, lo ricorderete, fu un vero boom, è scaduto ieri, e se ci siano in programma nuove emissioni per il 2018. Sentiamo Cannata. Abbiamo aspettative abbastanza buone perché, essendo stato investito così massicciamente in quello di 4 anni fa, ci aspettiamo che almeno una parte sia rinnovata, anche perché tutto sommato questo titolo ha performato bene ed è un investimento molto stabile e molto sicuro. Dottoressa Cannata, sono previste operazioni BTP Italia anche nel 2018 di nuova emissione, oppure vi limiterete, per quello che si capisce ora, solo a rifinanziare quelle che vanno a scadenza? No, anche se ricordo bene, anche nel 2015 non avevamo scadenze, ma un'emissione l'abbiamo fatta. Quindi penso che almeno un'emissione l'anno, anche in anni in cui non ci sono scadenze di BTP Italia, la manterremo. La vicenda del regista Fausto Brizzi. Dopo il servizio di ieri sera di Dino Giarrusso delle Iene, ci sono le nuove accuse arrivate da una decina tra attrici e showgirl. Chi è questo regista? Fausto Brizzi. Il regista è Fausto Brizzi. Il regista è Fausto Brizzi. 10 attrici con i volti oscurati e le voci camuffate hanno denunciato il regista romano Fausto Brizzi in TV alle Iene. Tra loro soltanto 2, Clarissa Marchese, Miss Italia 2014, e la modella Alessandra Giulia Bassi, non hanno chiesto la riservatezza. 10 testimonianze raccolte dal programma televisivo nell'inchiesta sulle violenze e gli abusi nel mondo del cinema italiano, che chiamano in causa il cineasta romano. Fausto Brizzi, dal canto suo, si è difeso dichiarando di non aver mai avuto in vita vita su rapporti non consenzienti. Ma l'autore dell'inchiesta, Dino Giarrusso, conferma che tra le decine di mail arrivate in redazione da parte di altre attrici pronte a raccontare tutto, un terzo riguardavano sempre Fausto Brizzi. Inoltre, pur non conoscendosi tra loro, le 10 donne hanno dato versioni molto simili. In alcuni casi il regista si è spogliato completamente e gli approcci sono diventati più pesanti. Era di fronte a me, si è spogliato completamente nudo. Mi ha chiesto se è pronta, mi giro e lo vedo completamente nudo. Nonostante la bufera che si è abbattuta su di lui, c'è chi prova a difenderlo, come Nancy Brilli, che con Brizzi ha fatto 3 film. Con me si è sempre comportato da gentiluomo e ha aggiunto: le denunce si fanno in procura e si è colpevoli quando è scritto in una sentenza. Inoltre, avance, molestie e stupro sono 3 cose diverse e oggi si sta mettendo tutto insieme. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora notizie dall'Italia. È arrivato il no alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sul cosiddetto naufragio dei bambini. Parliamo del naufragio di un'imbarcazione di siriani avvenuto l'11 ottobre del 2013 a largo di Lampedusa, nel quale morirono circa 300 persone, tra cui appunto 60 bambini. Il GIP si è pronunciato in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione e quindi ci saranno nuove indagini. Nell'inchiesta, lo ricordiamo, sono coinvolti 7 tra ufficiali e sottufficiali della Marina Militare e della Guardia Costiera, perché ci fu, forse lo ricorderete, una sorta di rimpallo, almeno questo sostiene l'accusa, una sorta di rimpallo tra le autorità italiane e quelle maltesi su chi dovesse effettivamente effettuare il salvataggio, e ci fu appunto questo naufragio. Andiamo a Parigi adesso. Valeria Solesin, Fabien Stech. La Francia oggi si è fermata per ricordare le vittime degli attentati di 2 anni fa a Parigi, tra cui, lo avete sentito, anche il nome di Valeria Solesin. Di fronte al Bataclan, locale che fu attaccato durante il concerto, l'omaggio del presidente Macron e della sindaca Hidalgo e la lettura proprio dei nomi delle vittime. 120 le persone, lo ricordiamo, che persero la vita durante l'attacco al Bataclan, ma anche allo Stade de France, in ristoranti e bar. E questo è il quadro appunto da Parigi in una giornata importante di commemorazione. Cambiamo decisamente argomento e veniamo ai dati che sono stati diffusi in giornata dal Ministero dei Beni Culturali. Sono dei dati confortanti per i musei italiani. Andrea Viali, buongiorno. Sì, è così Simone, buongiorno. A quanto pare negli ultimi anni c'è stato un vero e proprio boom di visitatori e di incassi per i musei italiani, lo testimoniano i dati che ha diffuso oggi il Ministro della Cultura Franceschini, che a Roma sta incontrando i direttori dei musei autonomi nati con la riforma varata, lo ricordiamo, dal governo Renzi. Bene, per quanto riguarda i visitatori, sono passati dai 38,4 milioni del 2013 ai 45 milioni e mezzo dello scorso anno, con un incremento superiore al 18%, ma a crescere, lo dicevamo, sono anche gli incassi, che sempre nel 2016 si sono attestati ad oltre 175 milioni di euro, con un incremento di 50 milioni, in questo caso 50 milioni di euro rispetto al 2013. Un trend positivo questo che sta continuando anche nei primi mesi del 2017, nel quale l'obiettivo è quello di raggiungere i 50 milioni di visitatori. La riorganizzazione sta dando i suoi frutti, ha commentato Franceschini, il quale ha voluto anche aggiungere che proprio questi risultati ottenuti dimostrano come fossero in qualche modo provinciali le polemiche, le ricorderete, quelle che c'erano state per la decisione di affidare a degli stranieri la gestione di alcuni musei statali. Per ora è tutto, Simone. Grazie, grazie Andrea Viali per questo aggiornamento. Noi andiamo a parlare di sport. Tra un fine settimana che si è concluso, che ci ha parlato soprattutto di motori, e una giornata nella quale i riflettori sono, Carlo Genta, puntati ovviamente su questa nazionale, che non ha mancato di deluderci nemmeno la settimana scorsa, e speriamo che stasera faccia qualcosa di meglio, Carlo. Sì, anche perché sennò quest'estate davvero andiamo tutti in vacanza per 2 mesi, perché qualcuno di bravo ha detto: i mondiali scandiscono il ritmo della nostra vita. E dal 58 che l'Italia non rimane esclusa dai mondiali, è stata anche l'unica volta. C'è questa partita contro la Svezia, si parte all'1-0 di Solna per loro. C'è una formazione che mi sembra abbastanza così misteriosa e improbabile, molto diversa rispetto a quelle cui eravamo abituati, con Jorginho che da tempo non era convocato e ha avuto pochissima esperienza in questa squadra, che partirà titolare, con Gabbiadini che pure era una sorta di desaparecido, anche se gioca nel Southampton in Inghilterra, che farà coppia con Immobile, e andiamo a giocarci la San Siro. San Siro tutto esaurito contro la Svezia, dentro o fuori, appunto, si parte dall'1-0. E non è inutile parlare di missione impossibile, perché impossibile non è. Di missione molto difficile, con una squadra in chiara difficoltà anche emotiva, beh, missione difficile lo è, Simone. È inutile nasconderci, perché la Svezia comunque è una squadra molto fisica, molto organizzata, una squadra che sa anche far vedere i muscoli e i gomiti, come abbiamo visto a Solna, ed è stato, secondo me, sbagliato appellarsi a un arbitraggio più equo, perché insomma si gioca per un mondiale, si gioca a pallone, si può giocare anche duro. Fuori De Rossi, questa è un'altra notizia, non sta benissimo, ci sono diversi giocatori dell'Italia che non stanno molto bene, su questo si può far poco. Per il resto non ci sono alternative: battere la Svezia con due gol di scarto, oppure guardare il mondiale alla TV, che poi vediamo quale, perché i diritti sono vacanti. Senti, caro, invece sui motori il fine settimana è stato, insomma, comunque interessante. So che tra l'altro ne parlerete in tutti, sì, i convocati. Naturalmente, perché insomma hanno vinto i mondiali i due piloti più forti che ci sono. Hamilton già lo sapevamo. Poi ieri a San Paolo la Ferrari ha fatto una grandissima gara, quasi perfetta, piazzando Vettel e Raikkonen primo e terzo, e con Hamilton che pure partiva l'ultimo schieramento dall'ultima pit ed era già campione del mondo, che è comunque arrivato quarto, quindi ha fatto una gara meravigliosa. Però adesso si corre per la passerella, per i punti, sì, per i quattrini, eccetera. Per quanto riguarda invece il moto mondiale, c'era una speranziella su Dovizioso e sulla Ducati, speranziella che è andata delusa, perché Marquez si è dimostrato anche a Valencia il più forte di tutti. La Ducati, soprattutto Dovizioso, non sono riusciti a metterlo sotto pressione, e lui ha gestito questa corsa difficile. Aveva 21 punti di vantaggio, non c'erano molte alternative: o faceva 1-0 con Dovizioso vittorioso, oppure finiva così come è finita, con lo champagne addosso agli spagnoli. Maledetti loro, fammelo dire sottovoce. Però vorremmo vedere un po' meno di egemonia ispanica, insomma, nei nostri confronti. Vediamo e speriamo, soprattutto per l'anno prossimo, tanto per la Ferrari quanto per Dovizioso. Esatto. Grazie, caro. Ti ritroviamo alle 14 in tutti i convocati. Traffico, poi iniziamo il nostro Giro d'Italia. È arrivato, se non me ne siete accorti, è arrivato un po' di freddo. C'è soprattutto un po' di preoccupazione dal lato delle zone terremotate. E poi parleremo di sicurezza a Roma. Però ho anche una piccola notizia da darvi sul nostro tormentone, ossia Igor, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, e sempre la diretta video sulla nostra pagina Facebook. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del terremoto tra Iran e Iraq, del confronto sull'età pensionabile che riparte, della direzione del Partito Democratico, di calcio e anche delle denunce arrivate tramite la trasmissione delle Iene per il regista Fausto Brizzi, accusato di molestie da una serie di attrici. Adesso iniziamo il nostro Giro d'Italia. Prima ancora di andare a Visso, per sentire com'è la situazione, visto che è arrivato il freddo, è uno dei comuni più colpiti dal terremoto, e a Roma, per parlare di sicurezza, la notizia ve la devo dare, perché ogni tanto ce lo chiedete, Il vostro tormentone Igor il russo, alias Norbert Fer, l'uomo imprendibile scomparso nelle campagne del ferrarese e mai più ritrovato, assassino di un barista e di una guardia ecologica, che fine ha fatto? I falsi allarmi proseguono. Quest'estate avevamo avuto notizia che da Milano era arrivata una chiamata alle forze dell'ordine, gli avevano detto: Igor è qua alla piscina Argelati di Milano. Erano arrivati in forze e naturalmente Igor non c'era. Questa volta la notizia è arrivata da Viareggio, telefonata al 113, da una cabina telefonica: occhio che è qua Norbert Fer, Igor il russo, che in realtà è serbo. Scattano i controlli, arrivano uomini in forze, polizia ferroviaria. Ovviamente un falso allarme anche in questo caso. Chissà dov'è in questo momento. Parliamo di cose più serie. Giuliano Pazzaglini, sindaco di Visso, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. buongiorno a tutti. Arriva il freddo, lo abbiamo visto e lo sentiamo nelle nostre ossa. Mi chiedo come lo sentono i suoi concittadini. Allora, il freddo in realtà era già arrivato da un po', adesso purtroppo arrivano anche le precipitazioni e questo aggrava tutto. Come vanno le cose da voi? Le cose vanno male per motivi che ho più volte spiegato, cioè una protezione civile che non ha fatto la protezione civile, ovviamente non per colpe proprie, ma per colpa di una riforma scellerata che ne ha ridimensionato le competenze. E poi una normativa sulla ricostruzione che anziché semplificare complica, evidentemente non è una risposta alle troppe domande che si sono create dopo il terremoto. Quante persone ci sono ancora, ci sono in questo momento a Visso che vivono in strutture più o meno precarie, ossia non nelle casette che tra l'altro non sono arrivate quasi in nessun posto? Allora, di persone purtroppo ce ne sono poche perché appunto le casette non sono arrivate. Tra queste poche sono troppe quelle che vivono in condizioni di precarietà, quindi roulotte, container, camper. E se qualcuno pensa che il disagio sia solo nelle due stagioni estreme, cioè estate perché sono un forno e inverno perché sono un frigo, non considera che qui c'è comunque molta umidità e quindi anche nelle stagioni intermedie l'umidità è tale per cui c'è il rivolo d'acqua che dalla parete scende sul pavimento, quindi non esiste un periodo in cui si vive bene in queste situazioni. È da più di un anno che queste persone sono costrette a farlo. Qualcuno crede che sia una scelta e in uno sparuto numero di casi è anche così, ma nella maggior parte delle volte dipende dal fatto che gli allevatori non possono allontanarsi da dove è la loro attività, questo è intuibile, e quindi non è una scelta ma è un obbligo che stanno pagando a caro prezzo, e mi riferisco alle condizioni di salute che non possono essere quelle ottimali, questo è evidente. Sindaco Giuliano Pazzaglini, sindaco di Visso, io la ringrazio, le auguro ovviamente un buon lavoro e la ringrazio per la sua testimonianza, ci consente di non abbandonare queste popolazioni, continuiamo a non farlo come avete sentito anche in queste settimane. Marco Cardilli torna da noi, delegato alla sicurezza di Roma Capitale. Cardilli, bentornato, eccoci. Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori. È un articolo piccolo nella cronaca locale del Messaggero che però ci ha colpito e continua a riguardare l'enorme tema delle periferie romane. Nella fattispecie è il campo, l'accampamento rom di Via di Salone, quello dal quale provenivano i due giovani accusati dello stupro di due quattordicenni romane, la storia la ricorderete. Succede che 16 nuclei del campo nomadi di Roma Est scappano sostanzialmente e vanno ad occupare abusivamente un edificio. Tutto questo perché all'interno di quello stesso campo, a quanto pare, operano dei clan che mettono in atto intimidazioni e riscossione di pizzo. Cioè, a questo livello siamo. Cardilli, cosa succede? Beh, sicuramente la vita all'interno dei campi è una vita molto, diciamo, sicuramente molto difficile, non solo per evidenti motivi, diciamo, di sanitari, di vivibilità, insomma, dell'area, ma questi ultimi tempi ovviamente si sono intensificati alcuni atti intimidatori. Su questo ovviamente sta indagando la procura. Io mi riferisco a quello che alcune testate hanno riportato. Ovviamente se all'interno dei campi rom qualcuno avesse da dichiarare, da denunciare fatti, episodi più o meno gravi, ovviamente noi siamo qui attraverso la polizia locale, ma anche altre istituzioni sarebbero ben liete ovviamente di recuperare denunce in questo senso. L'impressione, Cardilli, è che il problema si sposti da una parte all'altra, perché da una parte i campi rom, abbiamo detto, andrebbero chiusi, dall'altra parte queste persone vanno ad occupare abusivamente degli edifici che andrebbero sgomberati in quanto occupati abusivamente. È un circolo vizioso infinito. Beh, sicuramente i campi rom devono essere superati, ci sono delle direttive europee ben chiare, delle direttive nazionali, l'amministrazione capitolina ha adottato un piano rom e ci stiamo già muovendo su alcuni campi, ovviamente tutti insieme è impossibile affrontarli, li abbiamo un po' frazionati nel tempo, ma il loro destino è quello di essere superati attraverso procedure di inclusione. Nel frattempo ci sono situazioni come questa che appaiono ai limiti dell'emergenziale, Cardilli, no? Beh, questa situazione ovviamente è stata gestita, c'è stato il nostro personale della sala operativa sociale sul posto, è stata offerta assistenza, sono stati portati dei generi di conforto piuttosto che delle coperte lì per la notte, poi è stata offerta delle sistemazioni alternative che sono state rifiutate. Ovviamente si trattava di un'occupazione, le forze di polizia sono intervenute e si è provveduto a sgombrare, fortunatamente senza nessun tipo di incidente. Grazie Cardilli per essere stato con noi. Marco Cardilli, delegato alla sicurezza di Roma Capitale. Ci fermiamo, c'è la pausa, la borsa, poi ci ritroviamo subito dopo. Forse abbiamo tempo per qualcosa in più dei saluti, perché come sapete la puntata del lunedì è più corta perché c'è America 24 che va prima e poi dopo le 13.45 c'è Autotrasporti, quindi intanto ci fermiamo, ci troviamo subito dopo, ancora un paio di notizie e poi daremo la linea a Mario Platero. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: oltre 300 morti e migliaia di feriti per il sisma tra Iran e Iraq, una scossa sentita in Israele, Turchia e Dubai. Riparte il confronto sull'età pensionabile, ipotesi di 30 anni di contributi per i lavori più gravosi. Oggi direzione del Partito Democratico. Renzi vorrebbe allargare la coalizione, no da MDP e sinistra. Freddo e gelo nel centro-nord Italia, allerta nelle zone terremotate, lo avete sentito, dove non sono ancora arrivate le casette, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, giusto il tempo di un'ultima notizia che è una notizia interessante, perché è una notizia scientifica che riguarda il nostro Mar Tirreno, una scoperta dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia pubblicata su Nature Communications, secondo la quale si è appreso che nel Mar Tirreno c'è una catena di 15 vulcani sommersi lunga 90 km e larga 20, appunto appena diffusa alle agenzie questa notizia. Oltre agli 8 vulcani sottomarini già noti, se ne comprendono 7 appena scoperti, dalla costa a sud di Salerno a quella calabra, 30 km a est di San Gineto, in provincia di Cosenza. Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.